diventerai cammello, affronterai il deserto e al cospetto del sultano ti trasformerai nel guerriero a cui rubo il destino. Gli taglierai la mano, quindi in fuga su un destriero. Si scioglierà il tuo viso come c'era non il tuo coraggio. Brancolerai in quel buio scalzo in cerca del tesoro sacro e poi di colpo ne uscirai pulito con il vestito bianco e un volto nuovo come un diamante grezzo il tuo sorriso. Strofilerai il tuo anello, combatterai col drago alla stalla giù al tramonto. Stai sellando il tuo cavallo, ora di che sei un bandito, se non è ballato.